adesso che tutti i pagliacci che hai voluto sono morti in battaglia o in vano, e tu non ne puoi più di tutto questo ripetersi. Verrai allora a trovarmi qui in Jane. Verrai allora a trovarmi qui in Jane. Adesso che tutti i banditi, quei porto l'altra guancia, le pongono i fazzoletti e si lamentano, e tu vorresti qualcuno cui non dire niente, verrai allora a trovarmi qui in Jane. When your mother sent back all your invitation, and your father to your sister is playing, that you're tired of yourself and all your creation. Won't you come see me, Queen Jane? Won't you come see me, Queen Jane? Now where all the flowers led you on back to that tall lantern, and the smell of the roses does not remain. You. Won't you come see me, Queen Jane? Won't you come see me, Queen Jane? You.